Tornavauro, amici sono Spezzino e devo fare gli elogi a un toscano. Pensa a questo governo di centrodestra cosa combina. Capite? Dai, Vauro.